Allora, Luciano Martello è venuto da Bologna a questo presidio e ci fa un intervento sulla situazione della sanità pubblica. Si sta volando. Ciao, volevo dire un paio di cose così. Siamo qua oggi perché c'è uno sciopero nazionale di 24 ore, anche se poi il battage dei media, diciamo, non ci viene dietro perché non vuole. Ma il punto che volevo dire era questo. In tutte le regioni, io vengo in Emilia Romagna, anche se sono di Roma, tutte le regioni si racconta questa favola, tutto va bene, tutto funziona bene. Nella realtà è soltanto la forma di comunicazione che usano. In Emilia Romagna hanno privatizzato tutto, sanità, scuola, però sono riusciti a usare una comunicazione che pare aver convinto. Nella realtà ha convinto una popolazione molto irrigimentata, che ha sempre seguito quello che diceva il partito o il sindacato di riferimento. E quindi immagino che più o meno avvenga così in quasi tutte le regioni. Faccio un esempio degli ultimi giorni. Sapete che è saltata un'azienda, una start-up che produceva plastica bioplastica, e questa azienda che si è scoperto faceva speculazione finanziaria. Anche qui ci sarebbe da fare un discorso su quello che è la finanza, cioè il reddito e la ricchezza prodotta dal lavoratore, della sua capacità, da tutto ciò che invece chiamiamolo creatività o finanza elettraria, quella lì che diciamo è soltanto virtuale, che va a finire nelle tasche di poche persone. Questa azienda ha giocato molto con la borsa, aveva probabilmente un prodotto da dar via buono, mettiamolo anche così. Che cosa è successo? Viene fuori che gli stessi lavoratori, che probabilmente a fine mese prendevano anche qualche integrativo, e qui sarebbe da fare un discorso tra il contratto nazionale, probabilmente depotenziato, ma uno dei pochi, l'unico che riesce a garantire da nord a sud, a differenza dei contratti di secondo livello che spesso servono solo per prebende, per dare prebende ai soliti noti. Ecco, in questo caso, in quell'azienda di Bologna si è scoperto che i lavoratori dentro non c'avevano nessun sindacato, preferivano stare senza sindacato, non perché poi il sindacato riesca a risolvere tutto, ma per dire qual è il messaggio che si è passato, altro che disermediazione. In realtà si è passato il messaggio, credo molto nell'individualismo, ma non quello fine a se stesso, e quindi si è passato il messaggio che il lavoratore da solo può discutere e mettersi d'accordo con l'azienda. Questo è servito per indebolire il sindacato. È chiaro che l'individuo nel mondo del lavoro, come nella società e fuori, si fa rispettare se crede nei suoi diritti e nella propria dignità. Nel mondo del lavoro, far parte di un gruppo, di un'organizzazione che è conflittuale, penso che sia, diciamo, il modo migliore per esprimersi, perché individualmente non ci si riesce. Perché ho fatto questo discorso? Perché quello che stiamo vivendo oggi è il fatto che anche nelle situazioni che viviamo oggi, proprio il 25 aprile, e che rischiamo che ci sfugga di mano una situazione quando invece ci sono molti spazi da riempire. Sappiamo che ormai la politica si muove, non siamo né di destra né di sinistra, come per dire che se tagliamo va bene sia che lo facciamo di destra che di sinistra. Se diciamo che il decreto sicurezza è giusto, infatti come è stato fatto notare non è stato toccato, probabilmente non verrà toccato, perché queste leggi securitarie servono. Basti pensare che, se non sbaglio, in Piemonte sono andati, o in Toscana, credo in Piemonte siano andati all'interno di un liceo, la polizia, a chiedere i documenti agli insegnanti, al corpo docenti, sapendo che chi lavora nel pubblico come me ha un badge, un tesserino incontrato. Quindi il famoso discorso dell'assenteismo, altro diciamo slogan che viene usato, ma dove esiste l'assenteismo? Cioè, nel senso, esisterà, ma sarà stato, diciamo, sotto copertura di dirigenti. Io dove lavoro io, in ospedale, attacco alle 7 di mattina, alle 7.01, se ne accorgono tutti se Luciano Macchia è fatto. Invece qui abbiamo visto situazioni che sono borderline, ma questo è servito per far sì di far passare il messaggio che i lavoratori vanno controllati, vanno puniti, e quindi il decreto sicurezza all'interno tiene questo. Oltre ai limiti sulle manifestazioni, cerca di spaventare la cittadinanza e in particolare i lavoratori. Quindi ritengo che da questi momenti così collegiali, discussioni, dobbiamo ritornare nelle aziende e nella vita quotidiana a pensare che il senso critico e cercare di far gruppo, finalizzando con un obiettivo che è quello di far riconoscere il giusto all'interno di un'azienda, deve essere non il vero obiettivo, ma diciamo i passaggi possono essere graduali, ma devono portare chiaramente a dei risultati per i lavoratori e a cercare di far sì che quello che noi spesso ci diciamo, la difesa dei beni comuni, avvenga veramente, perché spesso anche sull'ambiente si parla molto. Faccio un discorso più ampio, perché chiaramente l'intervento non voleva essere solo finalizzato al problema della sanità, che se volete sì, è vero, il governo non ha finanziato nulla, anzi ritorno un attimo sui contratti nazionali del pubblico, i soldi non ci sono, sono stati finanziati circa 2 miliardi e mezzo, ne servirebbero come minimo per avere un aumento vero circa 6, ma il giochino che verrà fatto molto probabilmente è quella questione del cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dopo anni che è stato tagliato per le aziende significa per molti 20-30 euro al mese per chi ha un contratto e per chi ha un lavoro. Questo significa che i prossimi contratti rinnovati probabilmente saranno effimeri, proprio perché ci sarà questo giochino, e questo non va bene, perché anche gli schifosi accordi dei tempi della concertazione dicono che il contratto e che il rinnovo del contratto è un diritto dei lavoratori, non c'entra nulla se lo Stato poi vuole abbassare le tasse e le vuole recuperare. Invece oggi noi siamo messi nella condizione che perché la finanza, quella ereditaria, porta soldi solo ad alcune tasche, tutti noi dobbiamo stringere la cinghia, e quindi pochi aumenti, devi stare zitto nel mondo del lavoro e nella vita. Invece io penso che da oggi, come oggi, in situazioni come queste, noi dobbiamo ribadire la libertà di opinione, ma la libertà di agire, e quindi vi raccomando, non dimentichiamo sempre la conflittualità. Ciao a tutti, auguri.